Allora, questo laboratorio si inserisce in un percorso base, tra virgolette, di hack meeting che stiamo proponendo da un po' di anni, perché per evitare di concentrarci sempre su roba tecnica ultra specializzata, super verticale, oppure discorsi, dibattiti su tecnologie in generale, tipo ci siamo resi conto che magari tipo, i concetti base che molti di noi danno per scontato, per alcuni possono essere anche interessanti e soprattutto sono aggiornati costantemente. Quindi, iniziamo in Valsusa con questa presentazione che poi si è evoluta, è stata presa dai vari hack lab, l'abbiamo ripresa noi, quindi ora l'ultima versione è quella che proveremo oggi qua. Quindi no, voi non leggete, ma c'è scritto laboratorio di autodifesa digitale. Faremo così. Ah, fantastico. Allora, questa slide che non vede, c'è scritto che tutte le informazioni hanno un valore. Partiamo, diciamo, questa è una grossa premessa. Ogni volta che noi interagiamo con un dispositivo elettronico, che sia il nostro smartphone, che sia il computer, che sia il bancomat, qualsiasi altra cosa, noi produciamo delle informazioni. Questo tipo di informazioni hanno un valore, qualsiasi esso sia, qualsiasi essa sia l'informazione, ed è praticamente oggetto di contesa, ricerca, messa a profitto da vari attori. Allora, a chi possono essere utili? Noi abbiamo, cioè, i tre attori, diciamo, sono quelli, a chi interessano queste informazioni? Possono essere aziende, criminalità organizzata o meno, o i governi. Che cosa intendiamo? Con le aziende fanno i soldi, cioè, non si sapeva questa cosa, ma fanno i soldi con le nostre informazioni, tramite tipo la profilazione o la vendita a terzi. L'esempio è tipo tutti i vari social network, tutti i servizi che noi abbiamo gratuiti, le mail di Gmail, che è un servizio fichissimo, è tutto gratis, però quelli fanno i soldi guardando nelle nostre mail, vedendo cosa scriviamo, a chi le mandiamo, e rivendendo quelle informazioni ad aziende terze, oppure proponendoci pubblicità mirata. Quindi tipo uno dei motivi era appunto il marketing. La profilazione tipo attuata da Meta con Facebook tipo, è estrema, perché considerando che sono riusciti a convincere l'utente a connettersi alla piattaforma, che sia Meta, Instagram, Facebook, cioè sono tutte quelle commerciali, dalla mattina alla sera si può tracciare praticamente la giornata di una persona, con chi parla, quali sono gli interessi, perché uno tipo si connette per leggere il giornale, vedere dove sono i concerti, scriverlo all'amico o all'amica dove andare, e quindi tutta la vita è concentrata lì. E queste informazioni quindi rendono. Altro soggetto: la criminalità organizzata. Di questa cosa si parla un po' meno, perché l'utente normale, cioè quello che avvertiamo noi, sono fastidi. Tipo, sentiamo parlare di spam, ransomware, siamo da anni che combattiamo con gli antivirus. Dobbiamo arginarci dietro che ovviamente ci sta il profitto. C'è qualche gruppo dietro che ci fa i soldi. Tipo, quando prendiamo il famigerato virus, che poi il nostro computer inizia a mandare le mail, perché da qualche altra parte c'è qualcuno che risponde alle mail e fa arrivare dei soldi a chi ci ha infettato il computer. La stessa cosa con i ransomware, di cui si parla negli ultimi anni: il riscatto del software che ti blocca il computer in cambio di un riscatto. Quindi immaginatevi così: tutto ciò che sono fastidi, dall'altra parte c'è qualcuno che fa i soldi. E poi ci sono i governi, per ovviamente controllo e repressione. Se ne è parlato stamattina parecchio di come si comportano i governi. Come in hack meeting è un tema abbastanza centrale da sempre, perché ovviamente nell'interesse, cioè non, là è stata inserita una citazione di Snowden. Per dare un po' di contesto, Snowden era un informatico che lavorava per l'NSA, nel senso era di un'azienda che aveva l'appalto dell'NSA, e lui ha sostanzialmente dichiarato e confermato quello che si sapeva da tempo, ma lui l'ha messo nero su bianco riportando tutto il materiale, che l'NSA spia tutti i cittadini americani e non solo, in maniera praticamente completa. Ora, tipo, questo è un caso eclatante, ma ovviamente non è che ci sono gli americani che spiano, cioè tutti i governi esercitano tipo una sorta di controllo per applicare censura e repressione. Quindi potrebbe. Cioè, la lista praticamente è la totalità dei governi, cioè, sono tutti. Quindi, qua siamo sui modelli di rischio. Io, facendo questo contesto, Mi stavi passando. Sì, diciamo, l'idea di modello di rischio si basa sul fatto che sì, ci sono sicuramente delle buone pratiche che valgono un po' per tutte le situazioni di tutti i contesti, però poi a seconda di quali sono le nostre esigenze, da cosa ci dobbiamo difendere o da chi, vengono messe in campo delle questioni aggiuntive, degli strumenti specifici che possono servire più o meno per fare determinate cose. Quindi, appunto, la prima domanda, un modello di rischio è l'idea di, appunto, capire quali sono i rischi che stiamo correndo e di conseguenza come fare a proteggerci. Quindi la prima domanda è, appunto, da chi voglio proteggermi? Voglio proteggermi magari semplicemente, non voglio che la mia coinquilina, che usa anche lei il mio computer, quando scrive un indirizzo sul browser, le vengono fuori i porno che ho guardato ieri. Lì basta usare la modalità incognito famosa del browser, che basta a non tenere la cronologia della mia ricerca e quindi la mia coinquilina non vede i miei pornazzi. Se però sono in un paese in cui guardare porno è illegale, quindi mi devo proteggere dallo Stato, lì la finestra in incognito non serve assolutamente a niente. Dovrò mettere in campo delle accortezze ulteriori. Poi, cosa voglio proteggere? Esatto, è la seconda domanda. Quindi posso proteggere la mia identità, contatti e o le comunicazioni che ho con altre persone. Anche in questo caso si ritorna sempre al punto principale: da chi voglio proteggermi? Voglio proteggermi dai miei amici che non scoprano che sono su un forum online, basta che io mi scelga un nickname e sono protetta dall'essere scoperta dai miei amici e le mie amiche che frequentano quel forum. Se ancora una volta mi voglio proteggere da uno stato... Se voglio invece proteggermi da uno Stato o appunto da un'azienda, anche lì ci sono cose diverse che dovrò fare. Un aspetto interessante riguarda appunto i contatti e le comunicazioni ed è l'idea che soprattutto con i dispositivi mobile, telefoni, smartphone, eccetera, eccetera, di cui non parleremo, ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, perché dopo di noi ci sarà un talk fichissimo che parlerà appunto invece della autodifesa da un punto di vista di smartphone, eccetera, quindi vi rimandiamo al talk successivo per l'aspetto smartphone, però... E sugli smartphone io ho conversazioni anche con altre persone. Se il mio smartphone è vulnerabile, anche tutte le conversazioni che io ho lì sono vulnerabili. Quindi a volte non stiamo proteggendo solo noi stesse, ma anche le persone che transitano in qualche modo sui nostri dispositivi. E infine... Ok, quali sono gli attacchi ai quali potrei essere soggetta? E quindi alcuni esempi sono un po' quelli che abbiamo visti prima, estorsione di dati, sequestro dei miei dispositivi, se per esempio mi arrivano gli sbirri a casa perché ho partecipato alla manifestazione e si pigliano il mio computer, tutto quanto. Anche lì ci sono delle cose che possono essere messe in campo chiaramente prima che questo succeda, perché una volta che il computer è stato preso, è stato preso. E quindi quando appunto parliamo di autodifesa digitale è un bel casino, perché entrano davvero in gioco tantissime cose. E, sì, vai, vai. Il modo in cui, diciamo, una buona pratica che vale per la maggior parte dei contesti, ed è comunque un buon punto di partenza, è quello di non utilizzare software proprietari. Qualche persona è stata ieri al talk su Linux, software libero, comunque... Facciamo, chi non sa che cos'è il software libero, software proprietario, non ha sentito... mai queste cose. Ok, quindi è un tema che già ce l'abbiamo. Allora andiamo rapidissimi. Esatto, esatto, lo sapevamo che lo sapevate. E vabbè, provo a leggere questa cosa velocemente. Il software proprietario è un software di... infatti magari... Ecco, non meglio. Allora, il software proprietario è un software di proprietà di determinati individui e organizzazioni. Le licenze consentono il suo utilizzo solo sotto particolari condizioni e ne impediscono altre, come ad esempio lo studio, la modifica, la condivisione e la redistribuzione. Per esempio WhatsApp, Chrome, Microsoft, Android, non del tutto, ma le parti chiave sì, sono tutti software proprietari. Quello che ci interessa a noi, per quanto riguarda l'autodifesa, è che con un software proprietario noi non sappiamo effettivamente come funziona, perché non possiamo vedere come è scritto il software, cosa che invece ci viene concessa in qualche modo dal software libero, che si basa su quattro libertà base. La prima è quella di eseguire il programma come si desidera per qualsiasi scopo, poterlo studiare, poter quindi vedere come funziona e poi redistribuirlo e migliorarlo. E quindi appunto questo concetto qui è abbastanza fondamentale, perché magari io non so capire un software se c'è uno spyware dentro qualcosa, però ci sono persone che sono in grado di comprenderlo, e se il software è proprietario però non possono sicuramente. Detto questo... Sì, ci tenevamo a fare questa precisazione, perché tipo da adesso in poi parleremo sempre di software libero. Perché cioè, non so se, cioè, è un software che ci garantisce di verificarlo a differenza di tutti gli altri, come è stato detto prima. Quindi questa è, diciamo, una premessa, perché da qui in poi parleremo solo di software libero. Bene. Bene. Okay. Qua arriviamo praticamente alla novità di questo laboratorio, che siamo, appunto, abbiamo sperimentato l'ultima volta ad Accordai a Bologna. La differenza, adesso non continueremo più con le slide per ammorbarvi con una lezione frontale, ma faremo partecipare anche voi. Quindi, noi abbiamo scelto tipo una lista di parole, che magari sono conosciute o meno, che quindi vi chiederemo di cercare, e poi ne parleremo tutti assieme. Quindi la cosa è, cioè, perché vi rompiamo le scatole, che non ci abbiamo voglia di parlare noi, perché così almeno speriamo che facendo in questo modo i concetti rimangano di più, piuttosto che tipo buttarvi addosso tipo una serie di informazioni, però tipo parlando, interagendo, in teoria i concetti dovrebbero passare meglio. Abbiamo ricevuto feedback positivi la volta scorsa, quindi dovrebbe funzionare, tipo la gente non ci ha insultato poi. Sì. Quindi vi chiediamo di smontarvi, spostarvi, noi abbiamo 6 parole, quindi siamo tipo 17-18, dovrebbero uscire 6 gruppi da 3, e chiediamo per favore a chi sa già un po' di queste cose di non mettervi tutti quanti nello stesso gruppo, e soprattutto magari nel vostro gruppo di agire da facilitatori e facilitatrici, aiutando le altre persone a capire le informazioni e non dire ah sì, torre, bla bla bla bla, perché se no lo dicevamo noi qua. Quindi se vi va di fare questi gruppi autonomamente, se no boh, vi conto io 1, 2, 3, 4, 5, 6 di tempo, se vi raggruppate da sole è più bello. 3 persone, forse 1 da 2 ce ne sarà. Quindi il gioco è: ogni gruppo si sceglie una parola. No, adesso gliela assegniamo noi, sennò è un casino, sì. Così sono diversi. Ah, sì, sì. Ok. Comunque ogni gruppo cerca una parola. Sì, diciamo sul contesto, sulla tecnologia in questione, il contesto, possibili usi, alla fine tipo vi daremo 10 minuti, quindi non è che ci sarà da fare un trattato. E poi praticamente ne parlerà, ogni gruppo, diciamo, racconterà cosa ha trovato. E interagiremo un po' tutti per fare tipo un percorso tra le parole che abbiamo scelto e ritornare sui concetti accennati in precedenza. Sì, diciamo, l'idea che ci siamo fatti è: voi potete usare cellulare, dispositivi, i vostri ricordi per cercare questa parola che adesso vi diamo, parlarne fra di voi, capirla, e poi a ogni gruppo chiediamo di raccontare a tutti gli altri che significa sta parola. Allora, gruppo 1, Tor. VPN. Chi vuole cercare Tor? Esatto, facciamo così. Gruppo che cerca la parola Tor. Ok, gruppo Tor. Gruppo VPN. Gruppo crittografia. Ok, gruppo cookie, ci sono malware e metadata. Metadati. Abbiamo un gruppo in meno. Vabbè, metadati e bonus, ce lo cerchiamo noi. Esatto, chi fa prima trova. Allora, vi diamo 10 minuti, un quarto d'ora per bla bla bla e torniamo. Allora, cercare, la parola del vostro gruppo su internet dove vi pare, e capire che significa e poi ce la rispiegate, cioè la spiegate a tutti quanti noi. Arriva un gruppo di 3 persone per la parola metadati, no? Sì, ok, sì. Bene, allora, tempo scaduto. Iniziamo, ci raccontiamo. Allora, come vi abbiamo detto, adesso vi chiediamo di raccontarci le cose. Di nuovo preghiamo dai gruppi, non fate parlare i nerd, soprattutto non vogliamo sentire le voci delle persone di Acclabo, che le sentiamo tutte le volte, più volte alla settimana. E quindi pensavamo di iniziare con crittografia, che insomma un po' ci introduce a tutte le cose. Chi aveva crittografia, se volete venire qua a dircelo al microfono. E la registrazione è ancora attiva, se non volete essere registrate la spegniamo quando parlate. Ah, sorry, siamo rumorose. Ok, meglio. E crittografia. Allora, abbiamo fatto una ricerca su Wikipedia, quindi criptostenografia, nascondere un testo dove ovviamente ci sono delle tecniche, poi c'è uno che invia e uno che riceve, però avvicino il microfono, oh no. Ci siamo raccontati un po' di cose, sto cercando di fare mente locale. Quella che mi ricordo di più è stato il mio intervento in cui ho raccontato una storiella per far capire facilmente come funziona, ed è quella dove in una città di ladri ci sono 2 persone che si devono inviare un pacchetto. Come fanno? Non possono inviarlo normalmente perché verrebbe rubato. Quindi il primo prende una cassaforte, ci mette dentro il pacchetto, ci mette dentro il suo lucchetto e lo invia. Ok, problema. Arriva il ricevente, però gli arriva la cassaforte con il lucchetto del primo, e solo il primo ha la chiave. E quindi non può aprire la cassaforte. C'è una soluzione. Il secondo, il ricevente, mette il suo lucchetto e lo rinvia al primo. Il primo leva il suo lucchetto con la sua chiave e lo rinvia al secondo. Il secondo leva il lucchetto con la sua chiave e può finalmente aprire la cassaforte. E questo è un po' come funziona la crittografia in questo mondo. Sì, esatto, chiave simmetrica. Allora, raga, non vogliamo fare tipo le interrogazioni, infatti magari rompiamo le righe, parliamo tutti quanti assieme, tanto se no sembra troppo frontale. Comunque, l'esempio che ha detto lui adesso è perfetto per spiegare la crittografia a chiave asimmetrica, cioè quello che noi utilizziamo tutti i giorni quando ci colleghiamo a un sito in HTTPS. Che cosa vuol dire? Ora io magari ho preso la parola, però magari invito anche le altre persone del gruppo a contribuire a dire quello che hanno trovato loro, perché la crittografia è un concetto molto vasto. Sostanzialmente, banalmente, si proteggono i dati. Quindi con l'esempio della cassaforte noi proteggiamo un dato, che è quando noi comunichiamo con un sito, da un po' di anni si parla di HTTPS obbligatorio, diciamo. Quindi un soggetto terzo che prova a ascoltare la nostra comunicazione non riesce a comprenderla, perché la comunicazione è cifrata, perché appunto viene utilizzata una tecnologia di crittografia che funziona con quel principio là, che consente appunto di proteggere il dato. La crittografia però poi si può usare anche in un altro contesto. nel cifrare un disco fisso. Mi spiego meglio. Quando utilizziamo i nostri computer, ma vale anche per i cellulari, chiunque si trova in mano un dispositivo di un'altra persona, se l'accende, sorvoliamo la questione password, può accedere a tutti i dati che sono sul disco. Come si previene questa cosa? Con la crittografia. Ci sono le tecnologie che consentono di cifrare il disco nel momento in cui si installa un sistema operativo. Magari ieri l'avete visto nel talk Linux base, perché infatti non abbiamo affrontato molto questo argomento perché se ne è parlato ieri. E quindi consente di proteggere i dati che noi abbiamo da chiunque venga in possesso dei nostri dispositivi. E la crittografia, diciamo, viene utilizzata a tutti i livelli. Sostanzialmente c'è chiave asimmetrica, che è la descrizione della cassaforte, chiave simmetrica, in cui tutti e due gli attori conoscono lo stesso segreto. Caso reale, una password e chiave simmetrica. Cioè, io e lui ci dobbiamo scambiare un segreto protetto da password, entrambi abbiamo quella stessa chiave. Mentre con la cassaforte era diverso, solo una persona aveva il proprio segreto e lo usava per cifrare i dati dell'altro. Quindi questa, diciamo, è la base. Nelle buone pratiche, quindi, tornando al contesto autodifesa digitale, come impieghiamo la crittografia? Con cifrando i nostri dispositivi, utilizzando sempre più connessioni protette, non solo verso i siti, ma anche nelle comunicazioni tra di noi, con la messaggistica istantanea. Penso se ne parlerà ampiamente nel talk successivo sui cellulari. Quando usiamo Signal, WhatsApp, Telegram, quelle comunicazioni sono più o meno cifrate. Ora non voglio spoilerare il talk successivo, però si parlerà anche di questo. Quindi a questo punto, se non avete domande o non volete aggiungere niente, io andrei a un'altra parola. No, pensando ai modelli di rischio, la crittografia, per esempio, l'esempio del disco cifrato è quello che ci serve per proteggerci dagli sbirri, banalmente. Ci sequestrano il computer, il disco è cifrato, non possono vederlo. Attenzione, il disco cifrato arrivo non significa la password che voi mettete all'accensione del vostro account. Quella anche è una password, però se voi avete solo quella password, io prendo il vostro computer, lo smonto, tolgo l'hard disk, lo attacco al mio computer, posso prendere dati. Cifrare il disco è un passaggio ulteriore che non mi consente più di pigliarlo e di... L'ho spiegato abbastanza bene? Ok. Quindi questo era quel fatto lì del modello di rischio. L'utilizzo nelle email della crittografia anche ci protegge sicuramente dagli stati e sì, poi soprattutto per quella cosa lì. Sì, è da chi vuole in qualche modo intercettare le nostre comunicazioni. E c'era una domanda? Allora, la domanda la ripeto così, se ci sequestrano i computer, ci possono obbligare a dare le credenziali per accedere al contenuto? Qualcuno sa di preciso? No, cioè nel senso ce lo possono chiedere, c'è un libro che si chiama Stop al panico, che appunto consiglia di rispondere non la ricordo. Cioè loro non possono provare il fatto che tu la ricordi davvero. Poi ovviamente... Esatto, però puoi non tranquillamente dire non la ricordi e loro non possono fare nulla. L'amnesia ci salverà. Allora, se altre domande? Vai. Per cifrare il disco si fa in fase di installazione del sistema operativo. Quindi il primo passo che fai quando installi il sistema operativo ora i nuovi degli ultimi anni te lo chiede. Dice, vuoi effettuare la cifratura? Tu gli dai sì. Adesso è una pratica molto semplice. E lui macina sotto e il risultato che avrai è che sarà una password in più. Appena accendi, ti chiede subito una password su schermo nero perché il sistema operativo ancora non è avviato. Quindi cifratura del disco di Ubuntu lo trovi, si trova... Ora è semplice, qualche anno fa era un po'... Perché ho avuto la fortuna che... Cioè proprio prima di venire ad Hackspace... Mi sono potuto cifrare un'unica directory, quindi diciamo, quindi già tutto installato, però siccome avevo delle cose di lavoro, dice poi il resto se me lo ruba non me ne frega niente. E devo dire, magari se vuoi poi ti faccio vedere, però c'è una cosa che, diciamo, Linux ha un modulo già nel kernel per cui puoi farlo anche dopo l'installazione, ed è un'operazione totalmente, perché l'ho fatto io, totalmente indolore, che richiede una decina di minuti, non di più. Poi magari lo vediamo. Sì, si possono anche a posteriori, puoi cifrare anche solo delle cartelle, tipo col GPG dovrebbe essere la tecnologia chiave anche per le cartelle. Vale anche per i cellulari. Non mi ricordo cosa volevo aggiungere. Direi che... altra parola. La parola è Tor. Vai, che ci raccontate? Bene. Tor, nel senso, abbiamo un attimo parlato prima. Io ho un'idea molto confusa di Tor. Però ho iniziato col dire... Tor è quella parte, è una parte meno accessibile dell'internet, è accessibile tramite non il solito motore di ricerca Google, accessibile tramite qualcos'altro che potrebbe essere appunto Onion, però non so se mi sono fatto un'idea giusta o no della cosa. Lui forse lo sa meglio. Stiamo facendo il replay della discussione quindi che abbiamo avuto, perché ho detto non è proprio sovrapposto al dark web, in realtà è software che usi, il logo è una cipolla anche di Onion, nel browser anonimo di Tor, perché se tu penso, in realtà non lo so, credo che l'immagine suggerita è se tu provi a sfogliare una cipolla prima di arrivare in fondo stai già piangendo e non ce la fai. Penso fosse questa nella testa dei realizzatori. E perché funziona un po' come quando si scaricano i torrent, che si prendono i file da talmente tanti posti, la non riconducibilità, insomma, quindi hai un nodo di accesso alla connessione, poi rimbalzi tra tantissimi nodi il più possibile e sbuchi da uno che, insomma, risalire al tuo è non impossibile, però molto molto difficile, molto complesso. E poi siamo andati ai problemi. Tu dicevi alcuni contenuti non funzionano, ci siamo chiesti perché, e ricercando pensiamo di aver capito, insomma, che esistono delle blacklist degli exit node, e quindi ogni tot alcuni siti, magari quelli più ad alto rischio, le aggiornano più di frequente, tipo una banca. Se tu cerchi di accedere all'home banking, l'esempio che abbiamo fatto, tramite Tor, quella è una blacklist di exit node, dice ok, questa è una navigazione a rischio perché quella è la solita porta da cui esce tutta quella gente, cioè esce sempre gente diversa da lì, quindi no, non attivo alcune funzionalità, non puoi accedere al sito. Non so quanto Tor invece, quanto spesso cambi i suoi exit node per stare dietro a sta roba, se no non funzionerebbe, questo non ho idea. Allora facciamo dato che sono stati tirati fuori gli exit node del protocollo Onion, facciamo un approfondimento. Allora, la descrizione è stata abbastanza chiara. Comunque stiamo parlando di comunicazioni sicure. Tor nasce come rete per garantire un certo anonimato. Come funziona? Praticamente, quando noi, chiunque, vogliamo usufruire di, cioè vedere anche, facciamo cose semplici, vogliamo vedere un sito web, quando ci accediamo a quel sito web, il sito web sa chi siamo noi perché vede l'indirizzo IP da cui arriviamo. Chiunque si mette in mezzo su una comunicazione tra noi e il sito web può vedere chi siamo noi e cosa stiamo vedendo. Cosa fa Tor? Prova a prevenire tutto questo, ti garantisce un percorso sicuro tra te e la destinazione che vuoi vedere. A livello tecnico questa cosa è implementata con il protocollo Onion, appunto a cipolla. Ora non so se fa piangere effettivamente, però penso sia perché è a strati. Come funziona? Ho fatto un piccolo disegnino. Praticamente, nella pratica è così. I nodi Tor sono tanti. Ci sono i nodi in cui si entra nella rete Tor e i nodi da cui si esce, l'exit node, quello menzionato da compagni. Quando si entra nella rete Tor, parentesi, Tor noi lo scarichiamo come un browser, è semplicemente Mozilla Firefox che ha implementato dentro la comunicazione via Tor. Quindi se vogliamo andare a visitare un sito Tor da quel browser lì, noi che cosa succede? Il nostro computer si connette alla rete Tor, a un computer della rete Tor, che si connette a sua volta di un altro, a un altro computer della rete Tor, che si connette al terzo computer della rete Tor, che poi si connette al, al sito di destinazione che noi vogliamo vedere. L'ultimo passaggio è, è l'exit node, è quello che praticamente viene, diciamo, chi vuol contrastare la rete prova a intercettare, monitorare, bloccare, per appunto limitare la, questa tecnologia. In questo modo cosa succede? Che anche all'interno della stessa rete Tor non si sa chi sta facendo la richiesta e non si sa dove deve andare, perché con le tecniche di crittografia di cui abbiamo parlato prima, tipo HTTPS, tutto cifrato con le chiavi in cui non si vede il traffico, praticamente anche questo non sa, il nodo centrale Tor non sa chi sta facendo la richiesta e non sa dove deve andare. E quindi ogni volta si stabilisce un percorso diverso, e questo è il protocollo di Onion. Precisazione, Tor è un protocollo che noi usiamo comunemente come browser, il Tor browser è il Firefox, però Tor è questa tecnologia che a livello, se uno ha diciamo, più familiarità con la tecnologia, può usarlo per qualsiasi comunicazione. Cioè se lo installa sul computer, Tor Sox, ci sono vari programmini e quindi si può passare dalla rete Tor per qualsiasi cosa. Poi apriamo una, cioè questo dobbiamo dirlo perché è stato citato Dark Web, Deep Web. Allora, questo esempio qui è quando noi comunichiamo attraverso la rete Tor per vedere siti che sono in chiaro nell'internet. Però un sito potrebbe anche essere lui stesso nella rete Tor. Sono i cosiddetti Onion Service. Vuol dire un portale, io faccio un sito, che dico, può essere ceduto soltanto dalla rete Tor. E si chiamerà, avrà un nome, una sequenza alfanumerica lunghissima, perché sono chiave per il discorso della crittografia, e sarà punto Onion. Questo link lo passerò a chi voglio io, e chi vuole raggiungere quel link passa, fa due giri, diciamo, fa tre passaggi a livello cloud, chi installa la comunicazione. Dall'altra parte il mio sito, che è già nella rete Tor, farà altri tre passaggi, diciamo, per ricevere la comunicazione. E in questo modo diciamo, l'anonimato è ancora più garantito. Tutto ciò che è sulla rete Tor dovrebbe si identifica con Dark Web, se non erro, sì. Che è appunto accessibile attraverso queste tecnologie, che non è il Deep Web, che praticamente comprende non solo questa parte qui, ma anche tutto ciò che non è indicizzato nei motori di ricerca. Quindi un sito su internet che apre praticamente la parte utente privata, che non è però visitabile da chiunque. Questo è per distinguere deep web e dark web. Poi non volevo più, vi vedo un po' spaesati, però no. Esatto, sì, esatto, perché tipo non è esposto, non è ricercabile, non è visibile da fuori. Tra l'altro anche i social network commerciali ora stanno utilizzando i servizi Tor per esporli, tipo Facebook ce l'aveva, i servizi Onion, più che altro per fare i soldi nei paesi dove c'è una forte censura a livello di Stato. Come, quando, perché dovremmo usare Tor e perché non lo usiamo tutti i giorni? Chi no? Cioè, quali sono poi le robe scomode? O... Allora, in teoria la buona pratica è usarlo sempre. Perché se lo usassimo soltanto per comprare le armi in Est Europa, come facciamo tutti quanti qua, saremmo sgamabili facilmente. Invece, tipo, se bisogna confondere le acque per usarlo per andare tipo a leggere Repubblica, che ne so, a visitare il sito dove comprare la droga, cioè massimizzare le comunicazioni normali su una rete anonima. Se no, quella rete si connota soltanto per fare determinate azioni. Quindi la buona pratica sarebbe usarlo sempre. Ovviamente questa cosa potrebbe risultare un po' scomoda, però ci si prova. Sì. Cioè, sempre vero, però se tipo devo fare il login al forum che seguo, se devo fare il login a Mastodon, se devo fare il login alla webmail, magari no, perché poi altrimenti deanonimizzo il fatto che io sto... Cioè, su quei vari client Tor... ci gira Scossa che sta accedendo all'email di Scossa, probabilmente, cioè, quella è Scossa. Cioè, quindi nel momento in cui fai un login magari non c'ha molto senso. Nel momento in cui fai una ricerca sicuramente non sanno chi sta a fare la ricerca, che stai a cercare, comunque è molto, cioè, nel momento in cui devi fare login sconsiglia, cioè non c'ha senso più che altro, perché ti ha autentichi e dici chi sei. Non, poi non so. Cioè questa cosa sì, tipo, non, diciamo, non cambia nulla se invece tipo se lo usi su Google, magari su Facebook, questi che hanno già una profilazione su di te, perché poi ci sono anche tecniche di profilazione per la navigazione anonima, potrebbe anche comportare un rischio di esposizione. Comunque in genere tipo consultazioni base. Sì, no, un esempio, visto che è stato citato prima Edward Snowden, quando ha mandato ai giornalisti i documenti riservati dell'NSA, lo ha fatto tramite Tor, tramite Tails per la precisione, sì. Però quindi tramite Tor per... Esatto, e Snowden si sarà logato su qual, non so poi come sia questa roba qua, però diciamo il punto fondamentale sì è questo, il fatto che Tor ci protegge nel occultare dove stiamo andando su internet, però si sa che noi siamo entrati su Tor, insomma questa è una cosa che risulta, così come la crittografia delle mail. Non posso leggere che cosa c'è in quella mail cifrata, però so che quella mail è stata cifrata, quindi se io non cifro mai le mie mail, poi ce ne sono due cifrate, c'è qualcosa di strano in queste due mail, no? E poi si ritorna al discorso dello sbirro, ti dice dammi le mail, ah boh, mi sono scordata la password, bla bla bla. C'è una domanda, intervento. Ci arriviamo. Dici allora, passiamo a VPN. Sì, se vogliamo. O se io vorrei capire, ma i nodi della rete Tor diciamo diventi nodo quando installi il browser, o si può installare un piccolo server, o è un casino installare un nodo sul proprio computer? Allora, la domanda era praticamente come si fa a far parte della rete Tor, dato che ci sono i tre passaggi. È un'installazione specifica. Tu quando sei il browser sei fuori, cioè tu ti connetti e basta. Poi abilitano dei flag e delle impostazioni per dire se vuoi essere un nodo intermedio alla rete. Mi ricordo se sei relay, il termine tecnico peer. Oppure se sei specificamente un exit node. L'exit node è una grossa responsabilità, perché tu non sai dove si sta connettendo, non sai che si connette, quindi diciamo serve una certa tutela, ovviamente in base alla legislazione del paese in cui sei. Ci sono stati discorsi anche in ambito hack meeting per capire come gestirli meglio gli exit node e farli aumentare. Cioè, ovviamente più aumenta la rete Tor, meglio si sta, più è veloce e affidabile, perché ogni tanto si incappa in lentezze, perché comunque sono dei passaggi. Se uno è congestionato, può capitare un nodo, quindi si perde un po' in performance. Richiesta di verifica? Se c'è qualcuno che vuole verificare da dove è venuto questo accesso. Ah, sì, quel discorso. Sì, l'exit node ha una grossissima responsabilità, perché è quello che si espone. Sì, certo, sì. No, esatto. Se ne era parlato, perché cioè, è molto rischioso. Di una sono scordata. Ah, ok, no. Cioè, appunto, per quel discorso che si faceva prima riguardo tu accedi alla banca e la banca ti dice no, non puoi accedere da qua. Poi ci stanno anche quelle situazioni in cui viene evitata per il Black Lives Matter, varie connessioni o per in Ucraina, e là si può fare esplicita richiesta a Tor tramite nel menu di impostazioni di un no, di un exit node che non si conosce, perché le liste degli exit node sono pubbliche, cioè nel senso andiamo tranquillamente sul TXT, questi sono tutti quanti gli exit node, quindi se esci da là non ti faccio fare determinate cose. Se tu sei un cittadino ucraino che comunque c'hai dei problemi abbastanza seri, puoi fare esplicita richiesta di un exit node, te ne danno uno che non conosce nessuno se non loro e tu, e cioè insomma salva un sacco sotto in questi casi. Allora, passiamo alla prossima parola, se no ci sta finendo il tempo, che è VPN. VPN? Ve lo portiamo nella voi. Niente, abbiamo provato a fare delle ricerche, poi grazie all'esperienza di Massimo, che ci ha fatto un po' scuola su questa cosa. La VPN sostanzialmente è come se fosse un tunnel all'interno del quale i tuoi dati passano e sono appunto criptati, quindi non sono visibili sostanzialmente a nessuno. E quindi utilizzare una VPN magari prima di per connettersi a internet sostanzialmente ti rende anonimo e ti rende anche più libero. E si usa molto tra le aziende quando si devono collegare, una sede centrale e una sede periferica, per dire, no? Quindi per accedere alla stessa infrastruttura e condividere, che ne so, un'istanza di database comune. Anche a casa se hai dei dati. Anche a casa. Anche nella rete di attività. Sì, diciamo, la cosa base della VPN che usiamo nell'autodifesa è che è un altro strumento che non consente di capire precisamente dove ci stiamo muovendo, come ci stiamo muovendo. È meno sicura di Tor da questo punto di vista, però l'idea fondamentale è che io mi connetto da casa mia in Italia, però sono connessa tramite la mia VPN che sta in Olanda e quindi risulta che io sto in Olanda, non sto in Italia. E altre cose, esatto, ottimo punto. Sì, allora lo ripeto, grazie perché è un'ottima osservazione, cioè la questione della VPN, che comunque è un servizio che noi, alcune sono anche gratuite, però compriamo un abbonamento alla VPN, ad un'azienda o gruppo così che offre il servizio VPN, e lì però rientra lo step successivo del ci fidiamo di questa azienda, gruppo che fornisce questo servizio oppure no. Se non ci fidiamo di questo gruppo, la VPN non serve per l'autodifesa digitale, perché comunque non sappiamo loro, sì ok mi dicono esco dall'Olanda, ma boh. E ci sono, poi alla fine magari vi diamo qualche nome, se qual è Mulvad, MULV di Venezia, AD Mulvad. E RiseUp anche ha un servizio di VPN gratuito, che insomma chiedono di non abusarne perché non è, però potete usarlo. E con lo schermino, quanto ho detto prima, praticamente essendo la VPN, noi ce la installiamo a casa, quindi chi sta qua, chi osserva questa comunicazione, lato diciamo chi si connette, vede soltanto la comunicazione VPN, quindi non vede dove stiamo andando. Tipo Telecom che ti dà la DSL a casa sa che tu stai usando una VPN, come prima sapeva che tu stavi usando Tor. Quando arriviamo qua sulla VPN, perché questa comunicazione è cifrata come è stata spiegata prima, da qua si sa chi sei e dove vai. Per questo diciamo conviene usare servizi affidabili, perché tipo RiseUp, Mulvad, che sono attenti, molto attenti alla privacy, dichiarano tutta la tecnologia che usano e come la usano, perché tutte le VPN che in Italia sono esplose sostanzialmente per vedere le partite, perché tu decidi dove sta, in che nazione sta questo server, quindi se ti vuoi vedere i programmi inglesi dici voglio uscire da un nodo della Gran Bretagna e accedi alla TV inglese che è chiusa al di fuori, per esempio. E quindi molte VPN si arrogavano, diciamo, tipo, noi siamo affidabili, siamo veloci, però poi quelle VPN non sai a chi danno i tuoi dati, cosa ci fanno, quindi tanto vale cioè, usare quelle fidate. Certo, noi abbiamo riscontrato che Mulvad sono seri. Tornando a quello che diceva lui, la sua osservazione, proprio per paranoia massima, non vogliamo sapere cosa facciamo. Per le comunicazioni si potrebbe usare appunto una VPN verso un sito appunto di uno di questi servizi, o ce la mettiamo noi, se la macchina la gestiamo noi, se siamo appunto tecnicamente in grado. Arrivare qui e da qui in poi usare Tor. E quindi in questo modo, cioè, è proprio difficile capire chi sei e cosa stai facendo, se una persona ti vuole osservare la rete. Stiamo considerando un modello di diciamo intercettazione, detta male, del traffico a tutti i livelli. Poi vabbè, poi continuiamo con l'altro argomento. Quindi non so se ci sono altre. Allora, sì, l'ideale è, sì, più che sì, tu instauri tutte le comunicazioni della tua macchina attraverso una VPN, qualsiasi programma poi tu accendi sulla tua macchina passano nella VPN. Detto, la VPN sa cosa fai, però. Quindi questo è il massimo. Non so se è chiaro, ci vogliono tipo domande o chiarimenti, se no andiamo avanti. Queste erano le parole di un po' di strumenti per proteggerci. Le altre tre parole invece sono su più sul fattore del rischio. E abbiamo malware, cookie e metadati. Sì. Da quale? C'è malware. Malware chi ce l'ha? Non so se forse arriva. Tu passi, eh? Vabbè, ci provo. Il malware esprime una macrocategoria che racchiude diversi tipi di software che si possono, diciamo, intrufolare dentro un dispositivo elettronico tipo un computer o un telefono e sostanzialmente compiere azioni a tua insaputa, cioè accenderti il microfono, fare screenshot, vedere appunto le tue azioni, i tuoi dati. E quindi detto ciò, diciamo, noi ci siamo un po' chieste come, non lo so, proteggersi da questa cosa o come accorgersene, perché, cioè, io non è che posso aprire il mio telefono e vedere c'è un malware, cioè è un po' difficile. E quindi ci siamo detti che se il dispositivo magari funziona in maniera diversa, cioè viene messa, viene un po' disturbata la velocità del computer, vuol dire che c'è qualcosa che appesantisce il dispositivo e che quindi c'è qualcun altro che lo sta usando, ok? E quindi magari questo può essere un campanello d'allarme, per dire. E diciamo la cosa migliore è la prevenzione, quindi non lo so, scaricare un anti-malware, una cosa del genere, per prevenire appunto l'accesso, l'inserimento di un malware. Grazie. Ottimo. Sì, sui malware qualcuno, secondo me è perfetta come definizione, non penso ci aggiungere nient'altro. Possiamo fare un paio di esempi su il malware a livello politico, cioè un po' di quello che, pensando per esempio in un contesto di attivismo, allora vabbè, un malware classico sono i virus dei criminali che ti chiedono, poi magari ti bloccano tutto, mi devi dare i soldi, però, e quello vabbè è una roba. Parlando invece di attivismo politico, esistono anche i malware di Stato in qualche modo, cioè dei virus, dei malware che gli stati provano ad inoculare nei device di attivisti politici per sorvegliarli fondamentalmente. E diciamo, questa è ovviamente una notizia pessima, perché sono cose fatte molto bene, per cui possiamo non accorgerci, cioè sono fatte per non farci accorgere ovviamente che ci sono, e vengono introdotti tramite un link, una mail finta, esatto, accesso fisico al dispositivo, chiaramente, per esempio se vi hanno sequestrato magari un dispositivo, e non so se ci sono dei casi documentati di questo, però... Ok, però dispositivo sequestrato, ritornato, tieni, riprenditelo, c'è un malware dentro. Un caso che mi ricordo, alcuni tempo fa, una giornalista messicana alla quale fu messo un malware tramite il figlio, a cui venne mandato, figlio adolescente, a cui venne mandato un messaggino con un link ad un articolo della madre. Lui è aperto, infettato telefono del figlio, figlio a casa, infettata la rete di casa, infettato la giornalista con il malware di Stato. La cosa, diciamo, l'unica piccola luce di questa roba è che questi malware sono spesso, cioè anzi tipicamente sono fatti da aziende che ci fanno un sacco di soldi e costano anche tanti soldi allo Stato per utilizzarli, quindi... Vengono sicuramente usati dagli stati, ma almeno ad oggi cioè, costa anche usarli, quindi non è così semplice che vi venga inoculato un malware, cioè vuol dire che siete davvero molto a rischio se succede una cosa del genere. Questo sicuramente significa, cioè non significa non fottersene e non aprite i link strani, queste robe qua, perché appunto non si sa mai, magari non vogliono infettare voi, come la storia della giornalista messicana, magari vogliono infettare la vostra coinquilina, un'altra persona e passare tramite di voi. Però appunto sono robe che anche costano un sacco di soldi agli stati. Sì, questo per fare un passo indietro, per spiare le persone, fare le intercettazioni, prima si guardava in mezzo, come rispetto agli schemi che abbiamo usato finora. Cioè si andava dal provare, si diceva dammi tutte le comunicazioni di Tizio e Caio, sì, oppure con o senza consenso si intaccavano le stazioni, appunto sia internet, sia le celle, per vedere tutto il traffico. Quindi si spiava qua. Col tempo, l'avvento di tecnologie come Tor, VPN, le comunicazioni cifrate di default per molti stati, questa cosa diventa sempre più difficile. Quindi come fanno i governi appunto a tracciare, intercettare tutto quello che fa la persona che non gli sta simpatica? Agisce alla base, al primo punto, quindi il malware infetta la vittima. Il malware di Stato, cioè i malware che sono i captatori di malware di Stato, se ne è parlato, sono i cosiddetti captatori informatici. Nelle indagini, sui giornali se ne parla poco, perché molte volte vengono usati senza il consenso, cioè vengono usati di nascosto, il giudice non lo sa, poi però escono le prove, esce l'evidenza delle prove. Il malware, come è stato già detto, cioè intercetta quello che tu scrivi sulla tastiera, intercetta le foto che fai, tutte le comunicazioni, registra voce, fai gli screenshot, uno spy, sì, ti porti dietro una cella, praticamente una cimice, diciamo, sul telefono. Quindi, come è stato detto prima, se vi beccate un malware di questo tipo vuol dire che l'avete fatti proprio incazzare, e quindi perché costano un sacco. Sì. Quindi non è impossibile, però tipo ci sono molte aziende. Devono infettare l'altro telefono, perché il malware è un virus, come è stato detto prima. Ripeto un po' quello che ha detto lei, perché aveva detto tutti gli argomenti precisi. Cioè, il malware è un virus. I virus, quelli commerciali, tra virgolette, sono targettizzati per Apple, per Windows, in base al numero di utenti, tipo per Linux ci sono anche, ma non hanno lo stesso profitto che ti dà un ransomware per Windows. Quindi, diciamo, vengono fatti in maniera diversa. Il malware mirato viene fatto apposta per quel dispositivo. Quindi se c'hai l'iPhone o se c'hai Linux sul PC, ti viene fatto un malware ad hoc, che poi sono aziende terze che li vendono agli stati. Esatto, allora ripeto qualcosa. Allora, ripeto per la registrazione. Da qualche anno si usano i malware di questo tipo per solo col consenso del magistrato, che approva soltanto l'intercettazione vocale. Ma il malware è a tutti gli effetti un software completo. Quindi una volta che sul PC, sul device, fa tutto. Quindi non so se vuoi raccontare qualche... Ripeto quanto ha detto lei prima, la prevenzione prima di tutto. Volevi aggiungere? Sì. Sì, allora chi controlla il software controlla l'input di quel software. Quindi se tu usi un'applicazione, la tastiera di Google, che è un software che ti dà Google, tutto quello che tu scrivi Google lo sa. No, che scrivi sul telefono, la tastiera di Google sullo smartphone, tutto quello che digiti. Sì, sì. Non usare la tastiera di Google, ci sono delle altre applicazioni. Un'app tastiera... Se vogliamo parlare da F, si consiglia sempre F-Droid come market alternativo perché è software libero, era la premessa iniziale. F-Droid è un'applicazione che è un market in cui ci sono le applicazioni fatte col software libero e quindi diciamo hanno una certa, c'è un po' più di sicurezza, nel senso quelle là sono più controllate, puoi guardarci dentro, non appartengono alle aziende, quindi tipo un meccanismo in più per prevenire. No. Cioè, volevo aggiungere riguardo alla sicurezza di F-Droid, sì, nel senso che non vai a scaricare da un market che è di Google e che quindi sa quali sono le applicazioni che scarichi, quindi sotto questo punto di vista sei anonimo, non sanno cosa hai scaricato, però sicurezza nel senso che tranquillamente io potrei metterci un'applicazione che si chiama tastiera bellissima e che invece spio, cioè quindi non bisogna un attimo stare attenti a che applicazione scarichi, cioè non è detto che siccome stai su F-Droid è sicura, poi ovviamente quelle più comuni puoi andare abbastanza tranquilla. Non verifichi, ti dovresti andare dentro il codice che è abbastanza una sbatta. Quindi, diciamo, se ti devi andare a scaricare Conversation, la tastiera alternativa, Telegram, addirittura consigliano Telegram e Signal, consigliato scaricarli dal telegram.org, cioè proprio dal sito loro addirittura poi, o da F-Droid appunto. Poi se vai a scaricare dei videogiochi che hai trovato soltanto su F-Droid e che promettono cose strane, cioè non è detto che tu installi l'applicazione e c'è il malware e te ne accorgi. Tu ma installi le applicazioni, il gioco e ci giochi, ti diverti e intanto il malware fa cose, eh? Cioè non è così esplicito. Però su cose base si può stare abbastanza tranquilli, ecco. Volevo fare solo una brevissima precisazione da cacaspili delle parole. È bello il concetto di Google o malware, sì, tutti gli strumenti del capitalismo, della sorveglianza, li possiamo considerare come un malware, ma tecnicamente un malware fa una cosa che tu non sai che fa. Invece Google te lo dice tranquillamente sulla sua privacy policy che sta raccogliendo tutti i tuoi dati, eccetera, eccetera. Quindi tu, diciamo, nel momento in cui la usi hai dato il tuo consenso al fatto che Google sta prendendo i tuoi dati. Un malware non hai dato il tuo consenso perché tu non lo sai, cioè ti è stato messo senza che tu lo sapessi. Passiamo cookie, abbiamo gli ultimi quarto d'ora, quindi andiamo un po' rapidi con... Ok, allora sui cookie io li avevo visti ogni tanto nelle chiamate, guardando le chiamate che fanno il sito, cioè il browser del sito, magari anche certe applicazioni che si, vedevo che tra i vari header, tra le varie informazioni che tu mandi al sito, come il dispositivo che stai usando, la data, non lo so, c'è anche questo cookie. Io adesso non sapevo bene, infatti, prima a cosa fosse correlato. Sapevo che gestiva un minimo le sessioni, cioè il modo per cui il sito riesca ad identificare un utente. Però adesso infatti mi sono chiarito meglio parlando questi 10 minuti. E allora praticamente una volta che io con il mio browser mi collego a un sito, il sito mi manda un token, quindi una stringa alfanumerica unica, che identifica poi andrà ad identificare la mia attività sul suo sito. Quindi lui mi manda questo, io mi collego a un sito che vende, non lo so, anche Amazon, mi collego, lui mi manda un token identificativo unico, io me lo salvo, e da questo punto in poi ogni chiamata che farò a Amazon, tipo faccio una ricerca, faccio qualsiasi altra attività, gli mando assieme alla mia domanda anche questo mio identificativo, in modo tale che Amazon poi vede questo identificativo, vede quello che sto facendo su Amazon e lui si salva la mia attività. Questo perché? Perché facilita di molto l'attività web. Per esempio, uno degli esempi è login. Se la prima volta che faccio un login, questo è più negli anni passati, forse più vecchio, la modalità di login, che uno procede con il login, il server web mi manda indietro il mio token, io me lo salvo, quello lì è un token che nessuno deve scoprire, perché le prossime volte magari non devo neanche più fare il login, perché il web, il browser, sito, il server si è salvato che se qualcuno mi manda una chiamata con all'interno questo token, ok, lui è già entrato, so chi è, gli rispondo con quello che mi ha chiesto. In più so la sua attività, quindi posso anche modificare, posso personalizzare la risposta a seconda di che attività ha fatto in precedenza l'utente, quindi serve, è un'informazione molto interessante, cioè molto che può essere sfruttata assai da parte dei siti, perché in quel modo lì possono indirizzare della pubblicità, possono indirizzare, cioè è un'informazione che può essere molto spendibile dai siti. Poi è utile per noi per facilitare la navigazione in internet. E ho visto anche in alcune applicazioni che avevo aperto che si utilizza invece anche allo stesso modo un codice che identifica proprio l'utente, e questo qui però porta a un pericolo, perché se io riesco a intercettare tramite un man in the middle o qualsiasi altra cosa, mando un link malevolo a qualcuno che si collega e dentro c'è del JavaScript che riesco a leggergli il cookie, con quel cookie potrei anche impersonificarmi in quell'utente, perché l'utente pensa, ok, lui accede a Google, al suo non so, al suo account Amazon e vede che non deve fare il login, ok. Però in quel caso, se io riesco infatti a intercettare il suo cookie, potrei farlo anch'io. Potrei entrare, adesso Amazon magari non utilizza cookie, adesso non so, magari ci sono delle procedure più serie per farlo. Per esempio, infatti mi nominava prima l'autenticazione che usa invece delle, tipo cioè la crittografia, invece tu ti salvi la tua chiave, ogni volta che tu entri nel sito, il sito ti manda una challenge, tu devi, per risolverla devi avere quella chiave, e lì non passano cookie, perché ogni sessione c'è il processo di autenticazione ogni volta, non è che mandi il cookie che si era già salvato prima. E un qualcosa che avevo pensato, che poi effettivamente ho guardato che i motori di ricerca fanno, è che tu pur senza utilizzare i cookie potresti comunque mantenere una navigazione comunque semplificata se tu ti salvi il completo URL del sito che hai navigato, cioè che vuoi entrare senza dover fare di nuovo il login. Invece che dire al browser salvamelo te, no, io mi salvo proprio l'URL con all'interno anche la parte, il mio token, me lo salvo, e quindi la prossima volta posso usare un browser magari DuckDuckGo che non si salva i cookie, però non so se ha senso adesso. Sto pensando. No, perché ci ho pensato un attimo fa, non so se ha senso salvarsi di te. Ha senso cancellarli. Però se non vuoi, cioè vuoi mantenere comunque l'esperienza che ti dà il cookie di semplificazione. Cos'è? Ah sì, ha anche una data di scadenza. Sì, no, infatti, quindi non te lo salvi. Ok, no, è solamente perché così me lo gestisco io invece che magari venga salvato da altre parti. Cosa? Ok. Noi non andiamo nel tecnico. Vabbè, il succo è che il cookie che voi accettate navigando è uno strumento di profilazione che può farvi comodo o meno, però sappiate, siate consapevoli che serve a quello appena descritto, cioè identificarvi col sito che state vedendo. Quindi se può servire ad Amazon per capire chi siete, profilarvi e darvi suggerimenti sugli acquisti anche se non siete loggati, i giornali per capire che pagine leggete e quanto leggete, e qui ci sono strumenti per bloccare i cookie, per appunto non lasciare le proprie impronte quando si naviga. Quindi questa è una roba che ci abbiamo a che fare tutti i giorni, perché ormai per legge da qualche anno i siti espongono il banner accetti i cookie o rifiuti i cookie, quindi volevamo inserirlo per questo. Direi possiamo va bene. Allora, avevamo inserito anche metadata tra le parole, perché diciamo è fondamentale, se ne parla abbastanza poco. I metadata sono praticamente quelle informazioni aggiuntive presenti in un file. Esempio, se noi scattiamo una foto col cellulare, nel file foto è contenuto anche tutti i dettagli tecnici della foto, tipo risoluzione, altre cose, ma ci sono anche i dati del sistema operativo che ha scattato la foto, il GPS se abilitato, e quindi quando facciamo girare questi file facciamo passare anche un sacco di informazioni su chi l'ha scattata. Metadati ci sono anche tipo per esempio nei file i documenti Word, i .doc. Da proprietà si vede praticamente qual è la versione di Windows, qual è la versione di Office, qual è il nome dell'autore, chi ha licenziato quel software. La stessa cosa vale per i PDF. Diciamo cosa? Mail contengono i metadati, però diciamo più che altro nei file di tutti i giorni sappiate che lasciamo delle informazioni nostre. Quindi per certi tipi di scambio di informazioni esistono gli strumenti per pulire i metadati. Queste cose si può cercare, tipo pulire i metadati se vogliamo mandare una foto, oppure sempre per prevenzione disabilitiamo per esempio il GPS se vogliamo mandare le foto senza far sapere dove siamo. Stessa cosa, vogliamo scrivere un documento, leviamo tutti i dati su di noi, perché comunque sono dati che lasciamo in giro e non si sa. Quindi questa è l'ultima parola. Allora, Mat però è per Linux. Mat 2. Chi c'ha? Allora, o te lo scrivi col blocco note, che è un file, che è un tipo di file che non contiene metadati, oppure se usi Word con la licenza pagata su Windows, tu puoi andare a vedere i dati dell'autore e quindi dovresti poterli modificare. Sono delle impostazioni di Word, LibreOffice, quello che è. Per rispondere alla domanda di prima, come si eliminano i metadati da un file, cioè su Linux, su Windows sinceramente non so, su Linux c'è un programma che si chiama MAT2, scritto MAT2, lo installi proprio sudo apt install MAT2 e poi fai MAT2 nome del file e ti crea un file identico ma senza metadati. Mi sa che non ha un'interfaccia grafica, però davvero scrivi MAT2 più il nome del file, è relativamente facile, aggiungo soltanto, poi te lo passo. Mentre per Android, soltanto per i file video e immagini, da Fdroid sempre si può scaricare Aves Libre, che è una galleria immagini, normale come tutte le gallerie immagini, però in più puoi selezionare l'immagine, fammi vedere i metadati, ok, cancella i metadati. E ti dà anche li differenzia per varie sezioni, quindi puoi cancellare anche solo alcuni metadati. Aves, Libre e Mat 2. Mat 2, che diceva, si può, non ha un'interfaccia grafica, almeno che noi sappiamo, quindi sì? Ce l'ha? Ok, a posto. Ok. Ok. Questo volevo dire, basta. Andiamo sulle buone pratiche conclusive che sono un po' un passepartout per tutto, comunque ci stanno sempre. Vai. Ok, sì, vado io. Vado un po'. Facciamo una testa. Vabbè, prima ve l'abbiamo detto già, la cifratura e la gestione di un sistema PC o smartphone. Gli smartphone adesso poi scoprirete un sacco di cose fichissime tra poco, se restate per il talk dopo. E cifratura del disco ve l'abbiamo detto. Poi. Le password non ne abbiamo parlato, ma le password il consiglio è sempre lo stesso: password lunghe, robuste, nel senso tipo caratteri alfanumerici, caratteri strani, che non siano parole di uso comune. Piuttosto si usano le passphrase tutte mischiate, ma lo strumento da usare è il password manager, nel senso, se noi usiamo tante password complicate e diverse, perché su queste le buone pratiche, diventa un casino ricordarsele. Esistono gli strumenti in cui possiamo caricare tutte le password, poi è facilitato il copia e incolla. E dobbiamo ricordare una master password, cioè ce ne ricordiamo una molto difficile per sbloccare questo strumento che ci contiene tutte le altre password. Questa, diciamo, è una buona pratica in modo che ci consente di avere appunto password. Allora, giusto, lo strumento in questione consigliato è KeePass XC, scritto KEEPASSXC. Poi, no, solo questa cosa delle password, la passphrase significa, cioè magari è ovvio, però una frase magari, quando si parla di password, la lunghezza proprio della stringa è molto importante, cioè tra una password di 5 caratteri che sia punto esclamativo, 2, J che non significa un cazzo, e una password di 20 che è stamattina ho fatto la cacca molla, è molto più difficile da bucare. Quindi stamattina ho fatto la cacca mollissima e puzzava tantissimo, yeah, ancora meglio, super password. Questo è il concetto un po', e ve la ricordate anche meglio. Poi abbiamo detto dividere il personale, il lavoro, tipo usare più identità, nel senso separare tipo i contesti, usare Tor per certe cose, applicazioni diversificate, sì, soprattutto questo è per la messaggistica, per il cellulare, magari se ne parlerà meglio dopo. Comunque, navigazione consapevole, abbiamo un po' parlato prima, HTTPS per capire i cookie, come funziona, eventualmente bloccarli. Comunicazione consapevole, questo riguarda principalmente la messaggistica ormai, perché una volta si poteva parlare di mail, ma le mail sono usate molto poco, quindi si parla, sono i concetti di crittografia e affidabilità dei servizi a cui ci affidiamo. Non spoileriamo il talk successivo. Servizi affidabili in generale è open source, nel senso, se ci affidiamo a Google funzionerà benissimo, però sappiamo che tutto quello che gli diamo se lo rivende con gli interessi. I servizi autogestiti possono fare al caso nostro. I servizi autogestiti, abbiamo menzionato, tipo anche server radicali, cioè strumenti non proprietari, cioè strumenti software libero che collettivi si mettono su per offrirlo come servizio a chi ne ha necessità, chi si pone questi problemi. Quindi dove trovare, qual è il posto migliore per trovare queste cose? Gli Hacklab e l'Hackmeeting. Quindi ne vedete qua dentro, ci stanno un sacco di collettivi che offrono servizi autogestiti, piattaforme appunto non commerciali. Potete rivolgervi al vostro Hacklab di fiducia e impezzare le persone qua in giro. Qua abbiamo fatto una lista brevissima. Qua c'è scritto autistici.org, che c'ha mail, mailing list, blog, videoconferenza. Ci abbiamo Rise Up, che sono degli Stati Uniti, però sono molto fidati e storici, mail, VPN, piattaforme di organizzazione, pad, che sono strumenti condivisi per la scrittura, che è tipo quello che abbiamo usato per la scrittura di queste slide, Indivia, che offre mail, mailing list, spazio web, servizi di chat, Esiliati, mail, mailing list, UR shortener, tipo queste slide le trovate a out-dig.vado.li. Il vado.li è un URL shortener, accorciatore di URL, è offerto gentilmente dai Esiliati. C'è gattini.ninja, che offre tipo tipo fogli Excel condivisi, pad, map, tracciabili che hanno mail, chat, spazio web. Non ho messo Bida, che c'è Mastodon, Cloud, quindi diciamo ormai tipo, si riesce a trovare tutto in un contesto più fidato, c'è Disroot, Chatons che abbiamo, sono ospiti anche in questo Hack Meeting presenti, sono tipo collettivi francesi, quindi diciamo che l'ecosistema è molto vasto per usare alternative agli strumenti commerciali. Poi appunto dalla consapevolezza ci si muove, con la consapevolezza ci si muove meglio in questo ambiente. Direi che siamo giunti alla conclusione, non so, speriamo vi sia piaciuto e che abbiate appreso qualche concetto in più, ci saprete dire, non so se avete le ultime domande, chiarimenti, se no ci salutiamo. Stiamo scrivendo... Allora, la URL... Ah, trovate anche sullo spazio slide di Hack Meeting, le troverete o in questo formato, là. Lo trovate o in questo formato, o carichiamo il file, tanto è tutto testuale. C-H-A. Quindi direi che grazie dell'attenzione, grazie della partecipazione. Addio. Iniziando il talk sui telefoni sicuri in questa sala. Sì. È una continuazione di autodifesa, sì. Però solo sui telefoni. Va bene. Dove abbiamo? Sì, dillo al microfono. Ok. Allora, vabbè, sì. Però lo sente anche il vicinato, però se dico, se guardiamo il microfono. Si sente? È più alto? Allora, cari vicini e vicine, sta iniziando un altro talk sui telefoni sicuri, come maneggiare gli smartphone in sicurezza, che è la continuazione di questo laboratorio di autodifesa digitale, ma diciamo in maniera verticale sull'uso degli smartphone. Comunicazioni, utilizzo più in generale, è molto specifico, è molto approfondito. Consigliamo vivamente di seguirlo. Grazie. Posso chiedere di salvare la registrazione per favore? Se è possibile, su una cartella, se già c'è, dovrebbe esserci. Vabbè, se avete facilmente più. Invece volevo chiedervi se volessimo organizzare questo stesso talk nei nostri spazi a Cosenza. E noi inviamo le slide, cioè se non ve lo volete fare. No, ma tutto. Ok. Cioè, ve lo fate voi. Mi date una mano.